il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Si è appena concluso a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, il principale evento veneto dedicato ai formaggi, Casius Veneti, una manifestazione promossa dai consorzi dei formaggi a marchio DOP del Veneto e dalla regione stessa. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione di questo importante prodotto, che potremmo dire trasversale perché riguarda tanto l'agricoltura che l'artigianato e anche l'industria. Cerchiamo oggi di fare il punto della situazione assieme a Terenzio Borga, presidente di APROLAV, l'Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto, e presidente anche del Consorzio del Formaggio Montasio DOP. E ricordiamo anche che APROLAV è l'ente coordinatore di alcune manifestazioni, tra cui appunto il Casius Veneti, dei consorzi di tutela dei formaggi DOP. Intanto benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Per parlare di formaggi io partirei prima dal latte. Qual è la situazione oggi per i produttori veneti? Sappiamo delle varie questioni legate anche alla questione delle quote latte, che non esistono più e così via. Beh, credo che la situazione in questo momento per quello che riguarda la produzione del latte sia veramente drammatica, perché è finita la speculazione cinese per quello che riguarda l'importazione del latte in polvere. Abbiamo avuto l'embargo russo, che per noi era comunque una fonte di reddito, perché i russi comunque consumavano tanti formaggi ad alto valore aggiunto, yogurt o quant'altro. La sovrapproduzione mondiale e il calo dei consumi ci mettono in condizioni veramente critiche. Vorrei dire che il Veneto la sta affrontando in maniera un po' meno pesante rispetto alle altre regioni, perché appunto ha investito da anni sulla qualità. Però effettivamente le zone un po' marginali, tipo la montagna, stanno soffrendo in maniera incredibile. Parliamo di latte in quanto latte bevuto, ma anche di latte trasformato in formaggio. Esatto, i formaggi stanno soffrendo appunto sto calo dei consumi dovuto alla mancanza di disponibilità economica da parte delle famiglie, a quello che è un po' la crisi che stiamo vivendo. I consumi esteri stanno un attimo battendo il passo, perché noi veneti siamo abituati anche a produrre qualità e a esportarla, però non è che in questo momento stiamo vivendo un momento felice. Speriamo che, come sta succedendo un attimo, adesso la qualità venga riconosciuta e che si riparta un po' con l'economia in maniera che possa ripartire anche il nostro settore. Senta, non a caso volevo partire dal latte, proprio perché è l'ingrediente primo dei formaggi. Prezzi bassi all'origine, quindi per i produttori, magari favoriscono chi produce formaggi, viceversa prezzi alti favoriscono gli allevatori e mettono un po' in crisi i nostri casari, tra virgolette. Qual è il giusto mezzo? Come si sta cercando di raggiungere un equilibrio? Beh, io credo che i prezzi che stanno percependo adesso gli allevatori sono quelli di 30 anni fa, di 20-30 anni fa, quindi non è che si possa reggere questa situazione. Non è neanche che i trasformatori stiano vivendo un momento particolarmente felice, perché il ragionamento è di una sovrapproduzione mondiale. Noi ci dobbiamo ormai finire il regime quote latte. Già prima della fine del regime c'erano paesi aggressivi tipo l'Olanda, tipo la Germania, la stessa Francia, che non ha mai prodotto la sua quota, l'ultimo anno ha splafonato e adesso si lamentano perché ne hanno troppo. Ma se non ci sono consumi, mi chiedo perché dobbiamo aumentare più di tanto. L'Italia sta facendo la sua parte, ma noi siamo sempre stati un paese importatore e lo siamo tuttora. Ma come mai questa... Sì, prego. No, come mai questa sovrapproduzione di latte in Europa? Perché due anni fa il prezzo era molto favorevole, i 52, 53, 54 centesimi in qualche caso del latte spot, ma i 40, 45 che si percepivano anche così nella normalità erano una situazione abbastanza remunerativa, per cui le aziende effettivamente hanno prodotto di più. Non è il caso dell'Italia, che alla fine può produrre un 2-3% in più, che è ininfluente, ma pensiamo solamente alla Germania o alla stessa Olanda, che parlano addirittura di produzioni del 20-30% in più, su quote che comunque sono molto superiori a quelle dell'Italia, perché la Germania ha la quota 3 volte superiore di quella che è la quota dell'Italia, e naturalmente sono paesi che esportano. Ma se si blocca la Cina, se non possono portare in Russia, possiamo immaginare dove va a finire quel latte. Ecco, rimanendo da noi, questa sovrabbondanza di latte estero fa sì che anche i nostri produttori di formaggio probabilmente trovino più conveniente, almeno a livello industriale, credo, a livello artigianale, sia più conveniente andare al di là della frontiera a prenderlo. Ma io credo che questa situazione nel Veneto è vissuta in maniera molto meno sentita. C'è sicuramente del latte estero che arriva anche dal Veneto e viene trasformato. Mi riferisco a determinati formaggi che non hanno la DOP. Ma dobbiamo considerare una cosa, che noi in Veneto l'80% del latte veneto viene trasformato in formaggi di pregio, di cui il 70% è DOP. Se consideriamo che la media nazionale è del 50%, consideriamo anche che i due grandi da soli fanno il 40% della produzione nazionale, consumano il 40% del latte nazionale, la stessa Francia ha solamente il 20%, questo dà la dimostrazione di quanto il Veneto creda nella qualità, e l'abbiamo dimostrato al Casius Veneti questo. Ecco, ma qualità, ok, ma quantità, nel senso che se il latte è poco, si fanno solo un formaggio di qualità, siamo in un settore di nicchia, oppure ce n'è abbastanza per dare da lavoro o per creare, appunto, per far crescere un po' questo settore? A me piacerebbe riuscire a fare una panoramica di com'era il settore 30 anni fa e com'è adesso. Noi eravamo esportatori di materia prima, quindi di latte, nel senso che i nostri caseifici non riuscivano a lavorarlo tutto, andavo in Lombardia quando ero giovane io. Adesso noi lavoriamo tutto il nostro, lavoriamo circa il 30% di latte friulano, e ne arriva tantissimo anche dall'estero, e viene naturalmente trasformato in quello che dicevo prima, in formaggi normalissimi, o paste filate o quant'altro. Arrivano le cagliate, perché adesso non è neanche più una questione di latte, arrivano veramente le cagliate, cioè anziché 10 camion di latte arriva solamente un camion di cagliata, quindi proviamo a pensare anche ai risparmi che si hanno. Quindi il settore si è sviluppato in una maniera incredibile, e il comparto lattiero-caseario in Veneto ha decisamente un'importanza, è decisamente molto importante. Voglio ricordare che nell'agroalimentare il lattiero-caseario è ancora il settore più importante a livello nazionale, anche più dei vini, anche se noi qua magari non lo percepiamo, ma pensiamo solo alla Lombardia, che da sola fa il 40% della produzione nazionale, quindi è molto importante per quello che riguarda, certo, il punto di vista economico. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo insieme, okay, tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. 4 elementi per la nostra vita. Where there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has its day, it's so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant, a tear for the vulnerable. In every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream, we're unstoppable. With something to believe. Wednesday, my empty arms were open. Thursday, waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. How did I get so blind and so cynical. If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on a Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Stavamo parlando oggi di formaggio e lo stavamo facendo con Terenzio Borga, presidente di Aprolav, Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto, e anche presidente del consorzio del Montasio DOP. Abbiamo detto che la stragrande maggioranza del latte veneto va a finire in formaggi DOP, che sono un po' la nostra ricchezza. Beh, vogliamo intanto ricordare quali sono questi formaggi DOP del Veneto? Le DOP sono la Casella Trevigiana e ricordo che è l'unico formaggio molle a livello nazionale. Partiamo da est, c'è il Montasio, c'è il Piave, Valpadana, l'Asiago, Grana Padano, ricordiamo che i veneti producono il 30% di Grana Padano, il Taleggio che in questo momento non viene prodotto e il Monte Veronese. Ci sono produzioni come quella del Monte Veronese che vanno dai 60-70.000 forme, come quella del Piave 350.000 forme, 400.000, il Montasio circa 1 milione di forme diviso in due regioni. Come dicevo prima, l'Asiago è il secondo per importanza e il Grana Padano, comunque il 30% di Grana Padano nazionale viene prodotto in Veneto. Quindi credo che ne abbiamo tutti i tipi di produzioni che si possono immaginare, ma al Casius Veneti sono state premiate 37 categorie, quindi non solamente formaggi DOP, pensiamo a quante tipicità abbiamo nel Veneto, per cui non solamente produzioni tutelate col marchio DOP, ma anche produzioni storiche, mi vengono in mente il Morlac, il Bastardo del Grappa, gli Imbriaghi, i vari tipi di erborinati, i barricati e quant'altro. Quindi credo che a livello di qualità il Veneto abbia veramente nel lattiero caseario un fiore all'occhiello. Senta, ma conviene oggi dedicarsi a questa professione, cioè diventare casari? Abbiamo un'ampia fascia, un ampio spettro di iniziative, cioè si va dall'allevatore che è diventato, che ha un po' integrato la propria attività aprendo un piccolo caseificio, abbiamo gli storici artigiani, abbiamo anche l'industria, insomma, a livello industriale. Quale fascia su quale sta ancora tiene e conviene se qualcuno volesse dedicarsi a questa professione, a questo mestiere oggi? Ma l'ha detto lei prima, cioè c'è talmente una variabilità di investimento che effettivamente è sempre molto appetibile investire nel lattiero caseario. Ci sono tantissime cooperative piccole e grandi, industriali, artigiani, piccole produzioni aziendali, che comunque le maglie, veramente se si vuole si può fare nel lattiero caseario, basta avere un po' di iniziativa. Investire nel lattiero caseario nel Veneto secondo me è veramente importante, perché ormai si è instaurata nei veneti questa, nel loro DNA, questa voglia di confronto, questa voglia di ricerca della qualità, per cui prima o poi lo sbocco lo trovi. Pensi che la settimana scorsa a Istrana hanno fatto la rassegna dei formaggi della fattoria, c'erano addirittura 74 formaggi che erano in concorso su ste latterie aziendali che si sono sviluppate in questo periodo per dare un po' di redditività, quindi con un po' di iniziativa Nel settore lattiero-caseario si riesce a fare tanto. Ecco, ultima domanda, poi la lascio andare. Si è parlato quest'estate di latte in polvere, Unione Europea, latte in polvere, una questione che non riguarda assolutamente i formaggi GOP e mi pare anche in parte rientrata. Ma credo di averlo detto in più di una situazione, non è una cosa che ci tocca. E se il consumatore vuole averne la certezza, basta che quando va al supermercato o nel mercato specializzato ricerchi la qualità veneta. La qualità veneta, quella certificata, ma anche quella che praticamente in qualche maniera o tramite dei marchi di qualità o dei disciplinari di produzione dà certamente la sicurezza della qualità, non di latte in polvere. Noi facciamo i caseifici, al nord fanno i polverizzatori di latte. Questa è la diversità fra la concezione di produzione che abbiamo noi in Italia e nel Veneto in particolare rispetto a quello che è il resto dell'Europa. Bene, la ringrazio. Grazie a voi. Chiudiamo questa trasmissione con un paio di brevi notizie. In attesa della conferenza ONU sul clima in programma a Parigi nel prossimo mese di dicembre, 6.000 città e comuni di 42 nazioni si sono già dati da fare e hanno aderito al primo patto dei sindaci, un'iniziativa partita in tutta l'Unione Europea nel 2008 per andare oltre l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica fissato dall'Unione Europea in 20% entro il 2020. Si calcola che 126 milioni di cittadini siano coinvolti in queste municipalità, cioè un quarto della popolazione dell'Unione Europea, e attraverso i vari interventi che sono stati realizzati si pensa di arrivare ad un taglio di 189 milioni di tonnellate di CO2, quindi di anidride carbonica, entro il 2020, il che equivarrebbe a passare dal previsto 20 al 28% di riduzione. Tra le grandi città coinvolte, Copenaghen lavora per essere la prima capitale mondiale a emissioni zero nel 2025, mentre altre città come Stoccolma prevedono di arrivare all'obiettivo raddoppiare l'obiettivo, quindi almeno il 45% di emissioni, e Bristol meno il 40%. Infine, un convegno venerdì 2 ottobre a Bressanvido, in provincia di Vicenza, nell'ambito delle iniziative collegate alla festa della transumanza, è in programma un convegno dal titolo Il futuro dei prodotti agroalimentari di qualità, quindi in linea con la trasmissione di oggi. Tra i partecipanti vi sono Denis Pantini di Nomisma, Alberto Menghi della Fondazione Centro Ricerca e Produzione Animali e Franz Mitterunzner, direttore generale di Latterie Vicentine. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il quadrifoglio, vi ricordiamo che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.